rayakan hari lasan yo. Di sinan siriang di kami karako engko lai bana daunnyo sarupo namun rasonyo kandi jo batang rambutan tumbuhannyo lurui yo dake talago di sinan gania di kami marekan tentu babedo jo.